Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi in realtà apriamo da Pechino, dove è in corso il 18° summit, appunto, Unione Europea Cina. Il tutto nello spazio davvero impressionante della grande sala del popolo, focus specifico su Brexit, richieste di Bruxelles di maggiore apertura dei mercati agli investimenti e alle imprese all'insegna della reciprocità, un tema decisamente spinoso. In tutto questo, il Ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere che la conferenza stampa congiunta, che era prevista appunto per la serata cinese tra il Premier Li Keqiang e il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il presidente permanente Donald Tusk, è stata cancellata. Secondo alcuni, la mossa non sarebbe del tutto sganciata dall'esito che il Tribunale dell'Aia ha dato questa mattina, il contenzioso marittimo territoriale tra Cina e Filippine, appunto nel Mar Cinese meridionale. Ma sentiamo su questo vertice il punto di Livia Zancaner. Uno dei temi più delicati sul tavolo dei leader, riuniti oggi e domani a Beijing per il summit Europa-Cina, è il riconoscimento o meno a Pechino dello status di economia di mercato. Ieri è arrivato l'appello dell'industria europea. Bisogna dire di no, in caso contrario verrebbero aboliti i dazi anti-dumping con una ripercussione negativa sulle aziende, avverte Aegis Europe, che rappresenta oltre 30 associazioni industriali. Il governo cinese esporta i beni sotto costo per eliminare la concorrenza. Spiegano, in più le imprese europee che operano in Cina spesso sono vittime di politiche ostruzionistiche. La decisione di Bruxelles è attesa entro fine anno. Per Pechino il riconoscimento è automatico, visto che da 15 anni il paese è membro del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Condizione essenziale per far partire il negoziato di un accordo di libero scambio è la reciprocità, sottolinea il commissario al commercio Cecilia Malmström. La gente mi chiede perché le compagnie cinesi comprano società come Pirelli e Volvo, mentre lo stesso in senso contrario non avviene, dice il commissario, che aggiunge: l'Europa resta impegnata nei rapporti economici e commerciali con la Cina dopo la Brexit, ma ci devono essere regole accettabili da ognuno. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Imbarazzo, delusione, la consapevolezza di una scelta che può risultare davvero indigesta agli occhi dell'opinione pubblica. Sono questi commenti che dietro le quinte si raccolgono nei palazzi delle istituzioni europee sulla scelta dell'ex presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso, di andare a lavorare per Goldman Sachs, una delle più importanti banche d'affari del mondo, protagonista della crisi finanziaria del 2008 e di quella della Grecia. Sentiamo su questo tema il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. C'è chi in pensione va ad osservare gli uccellini al parco, chi va nei cantieri, chi cerca il lavoro di consulente e chi si ricicla in altri ruoli, perfino discutibili. È il caso dell'ex presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, che è stato proprio appena annunciato come presidente non esecutivo della banca d'affari Goldman Sachs, quella che viene definita un po' come la Spectre della finanza o come la longa manus di Wall Street della finanza americana sui mercati internazionali. In questo ruolo Barroso non mancherà di scatenare polemiche, anche perché non è la prima volta che ex leader dell'Europa, ricordiamo ad esempio Kohl che andò a lavorare per i russi, viene assunto da quelle multinazionali che proprio sull'Europa hanno fatto il loro banchetto migliore. Per Barroso le polemiche, insomma, sono soltanto all'inizio e non sono nemmeno nuove, visto che fu lo stesso Barroso, negli anni della sua presidenza della Commissione, 2004-2014, a farsi portatore non solo della necessità di creare un centro finanziario europeo in modo da contrastare gli speculatori americani, ma anche di quelle politiche del rigore che, oltre ad aver ucciso il Portogallo, rischiano ora di uccidere gli altri paesi. Insomma, una scelta quantomeno discutibile. Per ora è tutto sui temi europei, anche se ci sono parecchie notizie in arrivo appunto su questo fronte. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso dei nostri GR. Adesso è tempo di parlare di sport. Dunque, la linea a tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.